sai da qui si vedono le luci sciogliersi, ci pensi mai? Il tempo si misura in brividi, lo sai che qui confondono gli eroi con gli angeli, solo così è facile per me nascondermi. Non c'è più distinzione, non c'è nemmeno l'illusione di essere colpevoli. E poi per chi? Per gente che si muove sbattendo stupidissime ali al sole, o che sto solo non bemuove per poter tornare lì. Mostrerò come speciale il mondo, anche se fa male. Non è quel posto da lasciare, è ancora presto per partire. Ti parlerò di chi è speciale, quanto è noioso saper volare. È più difficile restare coi piedi a terra e non morire. Lo sai da qui, si vedono gli alberi. Lo sai da qui, si sentono i pensieri liberi anche di chi sempre pronto a rinchiuderli. Lo sai che qui ti ascoltano parlare senza interromperti. E in questo sì che avremmo da imparare per meglio viverci. E non c'è più distinzione, non c'è nemmeno l'illusione di essere colpevoli. E poi per chi? Gente che si muove sbattendo stupidissime ali al sole, o che sa solo gambe nuove per poter tornare lì. Ti mostrerò come speciale il mondo, anche se fa male. Non è quel posto da lasciare, è ancora presto per partire. Parlerò di chi è speciale, quanto è noioso saper volare. È più difficile restare coi piedi a terra e non morire. Lo sai da qui, lo sai che qui. Lo sai da qui, ci importa poco di vedere, ci importa poco di vedere. Ti parlerò di chi è speciale, quanto è noioso saper volare. Coi piedi a terra e non morire. Lo sai da qui, lo sai da qui. Ci importa poco di vedere gli alberi.